Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi, tecnologia oltre i limiti, oltre le capacità umane, per potenziarle e velocizzare e semplificare il lavoro, per aumentare la qualità di vita, non si tratta di supereroi ma di innovazioni e il loro fine è quello di intervenire nel bene, nella quotidianità. E dal bene nasce anche il business tecnologico e il mercato. Opera da tempo ma ha resistito alla crisi l'idea di CEDAT 85, che proprio dal 1985 si occupa di fornitura di contenuti provenienti dal parlato e di tecnologie utili per il trattamento del linguaggio. Alcune sono coperte da brevetto industriale di unicità e servono per trasformare il parlato in scritto. Magnetofono, per esempio, è il programma che permette di verbalizzare in modo automatico le sedute di un consiglio comunale, di organi consiliari, di riunioni in generale in modo rapido, assolutamente conveniente e in linea con il risparmio dei costi, che è importante in questo momento di difficoltà economiche. Sono tutte occasioni in cui è necessario redigere gli atti e trascriverli e sono il campo di CEDAT 85, come spiega il presidente Gianfranco Mazzoccoli. Fondamentalmente è il passaggio dal parlato allo scritto per qualunque finalità, che è quella di verbalizzare, di sottotitolare, di indicizzare un audio, di avere comunque una trascrizione, una trasformazione in testo, quindi di rendere totalmente esplorabile una qualunque sequenza parlata. È un'innovazione che è molto utile per esempio delle disabilità, quali? Assolutamente, questa è l'applicazione che immediatamente viene alla mente, che è quella di rendere fruibile il parlato anche per chi non sente. Pensiamo a una comunicazione telefonica, un sordo ha difficoltà praticamente insormontabili a parlare al telefono. Una nostra applicazione che stiamo sviluppando insieme con Telecom Italia prevede la possibilità che chi parla al telefono da un capo abbia la sua voce trascritta in tempo reale e dall'altra parte un sordo abbia la possibilità di leggere quello che gli sta dicendo il suo interlocutore. Ecco, qual è il vostro modello di business? Su che cosa basate per vendere i vostri prodotti? La nostra attività è business to business. Abbiamo anche una sezione di business to consumer, ma rappresenta una piccola parte del fatturato. Nel quadro di queste attività si tenga conto che gli utilizzi sono praticamente sterminati, perché se noi immaginiamo che cosa passa attraverso il parlato, passa probabilmente ormai il 70-80% delle nostre attività quotidiane, e quindi sapere, avere un'informazione in questo momento mentre noi parliamo in radio, e i nostri sistemi di trascrizione automatica stanno trascrivendo quello che ci stiamo dicendo. Certo, ovviamente è come sbobinare, diciamo, quello che fanno molto spesso, diciamo, delle... Solo che lo stanno facendo le macchine. Fantastico. E lo stanno facendo su 70 reti televisive, radiofoniche e web, e stanno trascrivendo H24 tutto ciò che passa su queste reti, e quindi lo stanno indicizzando, per cui sarà possibile ricercare sul testo direttamente la fonte originale. Quindi si potrà anche andare a cercare la parola, andare a cercare il concetto, e questa è una cosa molto utile perché si può risalire e non la parola non è più volatile, no? Come dicevano i latini, scripta manent, cioè lo scritto rimane nero su bianco. Starei per dire che siamo arrivati dopo 2000 anni al verba manent, quindi è la parola che rimane. Questa esperienza è molto importante ed è stata molto importante per avere le idee anticrisi, diciamo, queste innovazioni che vi tengono ancora vivi sul mercato dopo tutto questo tempo, e come azienda già comunque sul mercato avete avuto la capacità di innovare. Però quale altra cosa, elemento, ente vi ha aiutato nell'andare avanti? Abbiamo clienti che hanno creduto in noi, hanno creduto nell'eccellenza che volevamo portare avanti. Il primo pensiero va ai nostri clienti, che sono le istituzioni più importanti del paese, Camera dei Deputati, un nostro top client, Presidenza del Consiglio dei Ministri, un numero importante di consigli regionali, di assemblee legislative regionali, una serie di ministeri. Voi avete quasi sostituito le dattilografe e comunque anche per esempio alla Camera ci sono delle figure apposite che diciamo sono lì per trascrivere, o comunque non potrete sostituire l'umano? Sul fronte del parlato, della trascrizione del parlato, l'attività del cervello umano è insostituibile, quindi far diventare quel parlato intellegibile solo sul testo ovviamente è una prospettiva di medio-lungo periodo. Certo. Quello che abbiamo sostituito è la parte noiosa di questa attività, quella proprio della trascrizione vera e propria, quello del far diventare testo una sequenza parlata. Chi è il cervello in azienda che ha avuto queste idee? È un mix di persone che lavorano in maniera indescrivibilmente compatta, appassionata, gettando il cuore oltre l'ostacolo, facendo, come dire, lavorando ognuno con le proprie conoscenze, con le proprie competenze, ma in maniera totalmente generosa, la grande generosità. Quindi io starei per dire la carta vincente è la grande generosità del gruppo. Quindi è la squadra che avete creato che è importante. Assolutamente, no, cruciale. Io dico, amo dire sempre, le aziende le fanno le persone, non le fa né la tecnologia né il vantaggio competitivo. Ovviamente tutte queste cose aiutano, ma le aziende sono fatte dalle persone. L'altra innovazione che supera i limiti riguarda una startup italiana, Celux SRL, scritto Coelux, da cui nasce Coelux o Celux, un marchio registrato e la prima tecnologia al mondo messa a punto dal professor Paolo Di Trapani. È un docente di fisica presso il Dipartimento di Scienze e Alta Tecnologia dell'Università dell'Insubria Como, in grado di riprodurre nell'architettura indoor i meccanismi e i fenomeni ottici che regolano la luce nella natura, realizzato da un'equipe di scienziati italiani. Il progetto di ricerca è stato selezionato dalla Commissione Europea tra 12 progetti tecnologicamente più innovativi e ha ricevuto un finanziamento di 2,5 milioni di euro appunto dall'Unione Europea nell'ambito del 7° programma quadro di ricerca e sviluppo. In più è stato ospitato all'interno dell'Innovation Convention 2014 a Bruxelles. E tocca a Paolo Di Trapani spiegare bene questa idea illuminante. Il giorno esatto non me lo ricordo, perché si parla di quasi 15 anni fa, quindi era nel 2001. La scoperta è stata molto semplice. Ho letto un libro, si chiama Light and Colors in the Outdoor di Milner, che è un fisico, un astronomo del Sole, il quale raccontava di fenomeni atmosferici spettacolari, bellissimi, che succedono nella natura, nel cielo, con l'acqua, il sole, riflessi, la pioggia, i temporali, la neve, eccetera. Delle cose talmente belle, io volevo raccontarle poi in pubblico, ma avendole viste con i miei occhi, solo che le cercavo. Andavo in giro, macchina fotografica, giorno, notte, in montagna, al mare, e non vedevo nulla, assolutamente nulla. Per cui mi sono poi indispettito, dico, qui c'è qualcosa che non mi torna. E siccome questo personaggio spiegava nel testo come funzionava, mi sono messo in laboratorio con le mie mani e ho ricostruito alcuni di questi fenomeni secondo le leggi che lui diceva essere valide in natura. Quindi subito è arrivata la sperimentazione, ecco, perché proprio la sua storia è una storia, come dire, di competenza, perché lei anche insegna, no? Sì, io sono un fisico, mi occupo di laser, quindi di luce, ma a livello di impulsi di 10 milionesimi, di miliardesimi di secondo e petawatt di potenza, assolutamente lontani dalla luce di tutti i giorni, in un laboratorio buio. Io sono esperto di luce, ma di una luce che è molto lontana dalla luce esperienza di tutti i giorni, per cui ero, come dire, cieco, non ero in grado di vedere queste cose, solo che fatte, ricostruite in laboratorio, ecco che la luce, un'ombra di un ramo nell'ombra di un altro ramo, improvvisamente genera luce, cosa che dicevo, ma è impossibile, ombra più ombra fa buio, no? E invece è arrivata anche l'illuminazione. Ecco, qual è l'applicazione pratica da cui appunto è nata la startup Celux? L'applicazione pratica è che, avendo scoperto come ricostruire in maniera artificiale non gli effetti, ma proprio la fisica dei fenomeni ottici che si manifestano in atmosfera, abbiamo pensato di ricostruire il cielo e il sole in una stanza. all'interno di spazi che sono lontani dalle finestre. Questo è una cosa molto importante anche per esempio per paesi come l'Islanda che vivono un certo periodo di buio all'anno. Sì, diciamo, più lontani siamo dalle zone d'origine, più l'uomo soffre anche di fenomeni patologici, di depressione, che sono effetti di disordine, perché la mancanza della luce del sole e del cielo sono deleteri. Quindi paesi dove fa molto freddo, come la Svezia, ma anche Canada, spesso l'architettura si sviluppa addirittura sottoterra, perché la mancanza di luce, ma anche le temperature molto, molto basse, forzano l'architettura a svilupparsi in condizioni dove la climatizzazione costa meno, per cui in underground. Diciamo subito qual è il vostro modello di business, così cerchiamo di capire. Certamente tutto lo sviluppo dell'architettura ipogea, quindi paesi dove fa molto freddo oppure molto caldo, perché comunque anche dove è molto caldo le finestre sono piccole per problemi opposti, o molto umido, supponiamo Singapore o paesi dove la gente vive spesso in ambienti sotterranei, ma questo non solo, no? Anche in un ascensore le persone gradirebbero avere il cielo, o piuttosto, se lei pensa agli alberghi, le spa, no? I centri benessere, i centri sportivi, ma poi uno può pensare alle abitazioni, agli uffici, alle cabine. Sarebbe molto bello vederle, poi in radio non possiamo vedere queste cose. Ci può indicare un sito, un posto dove possiamo visualizzare queste immagini? Della società si chiama Coelux, quindi www.coelux.com, dove è possibile vedere le fotografie delle, non sono tutte foto, non sono chiaramente dei rendering, le persone spesso si stupiscono e pensano che sia un disegno o un rendering al computer, sono foto di installazioni veramente realizzate, ma se uno vuole vedere con i propri occhi venga all'Omazzo, al Parco Tecnologico, dove c'è adesso un'installazione montante, può essere di. Importantissimo allora capire chi vi ha aiutato a realizzare questa idea, perché è molto particolare ed è anche veramente innovativa. Chi vi ha dato una mano, oltre appunto al Parco Tecnologico? Innanzitutto la comunità europea, abbiamo avuto parecchi finanziamenti dal 2010 a oggi, di diversi milioni di euro, con tre progetti che ci hanno consentito poi di sviluppare tutta la tecnologia che adesso è utilizzato. Il Parco Tecnologico di Lomazzo, Como Next, che ci ha ospitato, e poi prima di tutti l'Università dell'Insubria, dove io insegno, che ha consentito dal 2001 ad oggi di sviluppare questa attività di ricerca, inizialmente con gli studenti, poi sempre in maniera più importante con partner internazionali, che poi ha sviluppato una spin-off. Coelux è una spin-off di cui l'università è appunto socio. E ora realizzate le vostre illuminazioni. E se volete ascoltare le precedenti storie o scrivere le vostre voci di piccola impresa su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog è su www.radio24.it, dove trovate anche il download. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza. Un saluto da Anna Marino. Avete ascoltato Voci di Piccola Impresa, idee anticrisi. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Un saluto e a sabato prossimo.